Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Scrivo da Londra per esprimere la mia frustrazione su come viene gestito il calcio italiano. Domenica scorsa, sul campo dell'Aston Villa, un tifoso ha centrato con una monetina un guardalinee. Cosa sarebbe successo in Italia? Provo ad ipotizzare un possibile scenario. Pistolotto sociologico sul background culturale dell'ultras medio, divieto di trasferte a tutti, non solo all'idiota che ha tirato la monetina. Norme cervellotiche con acquisti di biglietti limitati a residenti in determinate province o regioni, settori ospiti e altre zone degli stadi blindati, con reti e balaustre che infastidiscono non poco la visuale a quel povero fesso che ama ancora andare allo stadio. Risultato? Stadi sempre più vuoti, ma non svuotati di quelle frange di violenti che non si fermano davanti a restrizioni e lunghe trafile per comprare il biglietto. Per loro la curva è ragione di vita. Non hanno molto altro a cui pensare. A casa ci sta chi ha una vita normale e magari preferisce guardarsi la partita in TV, invece che spendere soldi per vedere, quasi sempre male, nei nostri stadi, la propria squadra dal vivo, in uno stadio scomodo, dopo trafile interminabili alle biglietterie. Tornando all'episodio della monetina di domenica al Villa Park, ecco come puniranno il responsabile dell'accaduto. Lo cercheranno per bene con le telecamere. E credo lo troveranno, perché gli stadi inglesi hanno settori ben separati fra loro e più ordinati. E poi l'Aston Villa, su richiesta della federazione, proibirà a vita l'ingresso a quella persona nel proprio stadio. Tutti in Europa si sono ispirati a questo modello. Invece i nostri continuano a dire che noi siamo diversi e che dobbiamo seguire un'altra via. Ma quale altra via? Davvero tifoso e residente in Inghilterra, sono sconcertato. Marco. In questi giorni, nel commentare le proteste in atto nella scuola italiana, si è fatto spesso notare, non senza ironia, che i protestatari più solerti sono gli studenti delle scuole superiori, che non sarebbero minimamente interessati dalla riforma. Questa opinione fa il paio con quella del ministro competente, che ha commentato, con analoga minimizzazione, lo sciopero del 17 ottobre scorso. Mi permetto di far notare che invece il progetto di riforma in atto investe tutta la scuola nel suo insieme. Qui non si tratta solo di grembiulini, di voti di condotta o di maestri unici, ma di un disegno complessivo che, se portato a termine, riguarderà ogni ordine e grado dell'istruzione. Ed è questo il motivo per cui tutte le categorie afferenti al sistema di istruzione italiano, dalla primaria all'università, si ritengono coinvolte. Paolino, insegnante, provincia di Roma. Posto che manifestare civilmente è un sacrosanto diritto garantito dalla Costituzione, rimango comunque allibito dal vuoto delle proteste contro la riforma della scuola. Come già osservato da diversi commentatori, la protesta si estrinseca solo con un no incondizionato, senza alcun rilancio, salvo la solita stantia richiesta di più soldi. Una ricetta che la storia degli ultimi 30 anni, almeno, ha dimostrato fallimentare. Ci vuole quindi una bella faccia tosta per ribadire quest'unica medicina alla malattia del sistema scolastico. Ed ecco la provocazione. Siccome a sinistra alloggia una fetta consistente dei dietrologi, sempre pronti a vedere complotti, grandi vecchi, multinazionali e logge massoniche, mi chiedo se dietro queste manifestazioni non ci sia la regia occulta, ma neanche poi tanto, d'un grande vecchio sindacalismo reazionario. La faccenda funzionerebbe più o meno a questo modo. Studenti che godono d'una scuola d'eccellenza, preparati a sostenere e vincere le sfide del mondo globalizzato, piaccia o no, una realtà da cui non si torna indietro, avrebbero molte più opportunità di lavoro e migliori prospettive professionali. I loro insegnanti sarebbero naturalmente professionisti d'eccellenza. Da sempre noto che le professionalità d'eccellenza si fanno strada senza grande bisogno di tessere sindacali, soprattutto in una società in cui il lavoro è sempre più in terziario e servizi. Viceversa, una maggioranza della società debole, ovvero vulnerabile, a causa di una scarsa preparazione alle sfide del mondo, farebbe apparire il ruolo del sindacato necessario e duplice. Potrebbe sembrare il solo necessario garante dei diritti del lavoratore e facilitatore alla mammella di uno stato nutrice che tanto piace a buona parte della classe politica con legami a filo doppio con il sindacato. Qui mi domando se tutte queste manifestazioni contro le riforme della scuola non nascano dal desiderio di tenere gli studenti con la testa sott'acqua, in modo che un domani abbiano solo una possibilità, quella di farsi una tessera sindacale sperando di essere tutelati nella loro vulnerabilità. È una provocazione, ma il dato di fatto su cui i riformisti non vogliono ragionare è che in questo modo i figli dei più abbienti possono continuare a frequentare scuole d'eccellenza, magari all'estero, e continuare a restare classe dirigente, alla faccia dell'uguaglianza di opportunità. Roberto. A me viene il dubbio che Veltroni abbia solo una vaga idea di che cosa sia stato il nazionalsocialismo. Personalmente sono un appassionato di storia contemporanea. Veltroni dice che la crisi economica del 29 fu decisiva per l'ascesa di Hitler. Io credo che decisiva sia stata solo la prima guerra mondiale e il tipo di pace che ne è seguita. Lorenzo. Vorrei fortemente che a tutti i politici della maggioranza, ma anche dell'opposizione, si chiedesse che fine hanno fatto tutti i propositi di riduzione degli sprechi. Auto blu, abolizione delle province, comunità montane, riduzione dei parlamentari, consiglieri locali, unificazione dell'INPS e dell'INAIL, eccetera, eccetera. Si taglia nella scuola, nelle università, negli ospedali, e forse qualcosa pure giusto, ma quando cominceranno a tagliare anche i loro posti di politici? E perché Veltroni, che aveva detto che si dovevano ridurre gli stipendi dei parlamentari, e tutti i parlamentari democratici e i radicali, che ho votato, non si riducono lo stipendio, magari versando il 20% in un fondo da far gestire al nostro presidente? Darebbero un bel esempio concreto. Abolendo le province si avrebbe meno burocrazia, si risparmierebbe sugli affitti dei locali, sulla luce, sul telefono, riscaldamento, costo elezioni, indennità degli amministratori. Riusciremo ad avere un segnale concreto da qualcuno che ci ridarà un po' di fiducia? Massimo. Tutti gli italiani sono fortemente infastiditi dal fatto che il prezzo dei carburanti schizzi subito in alto all'aumentare del petrolio, ma alla sua diminuzione rimanga lo stesso o cali con esasperante lentezza di tempi. Sarebbe quindi ora che il governo prendesse l'iniziativa per stabilire dei prezzi medi di base dei carburanti per tutti gli utenti, che le compagnie poi gestirebbero in concorrenza tra di loro, lasciando la scelta della maggior convenienza ai loro clienti. Semplificando, il meccanismo potrebbe essere il seguente: stabilire il prezzo del petrolio grezzo, ovviamente mediando le quantità e i prezzi dei vari tipi di provenienza diversa; stabilire il tempo medio necessario alla raffinazione, ad esempio 3 mesi, definire i costi medi di trasporto, raffinazione, distribuzione e altro fino alla pompa. Da tutto ciò deriverebbe automaticamente un costo chiaro, preciso e pubblico, sul quale nessuno avrebbe più nulla da obiettare, stabilizzando così, una volta per tutte, un mercato di importanza assolutamente vitale per il paese, alla faccia dei soliti furbi approfittatori, con la speranza che tra questi non ci sia proprio lo Stato. Fabio. Egregio direttore, scrivo a proposito di quell'ascoltatore di Bologna che si lamentava perché le case popolari vengono assegnate a cittadini stranieri, piuttosto che agli italiani. Per avere diritto a un alloggio popolare, di norma, i cittadini stranieri devono risiedere regolarmente in un certo comune italiano. Devono quindi avere un regolare lavoro. Se hanno un lavoro regolare, pagano le tasse. A parità di reddito, lavoratori italiani e stranieri pagano le stesse tasse, ma i lavoratori stranieri arrivano da noi generalmente in età adulta. Non hanno frequentato le scuole nel nostro paese. Non sono quindi stati a carico della collettività per anni per avere un'istruzione gratuita. Io, ad esempio, ho studiato per 13 anni, elementari, medie e superiori, prima di versare una sola lira di tasse allo Stato. I lavoratori stranieri sono generalmente giovani, mediamente godono di buona salute. Pesano quindi poco sul sistema sanitario nazionale, il cui maggior costo è costituito dall'assistenza ai nostri anziani. I lavoratori stranieri non hanno diritti politici, non possono scegliere chi tra noi gestirà i soldi delle loro tasse, ma quegli stessi soldi pagano i costi della politica. Ci avranno mai pensato i politici della Lega che i loro stipendi sono pagati anche dalle tasse delle badanti e dei muratori rumeni? Non possiedo dati precisi, ma credo di non sbagliare se dico che i lavoratori stranieri che pagano le tasse ricevono mediamente meno in servizi rispetto a quanto versano in tributi. La loro immissione nelle graduatorie per gli alloggi di edilizia popolare, con gli stessi diritti e requisiti dei nostri concittadini, non deve quindi rappresentare alcuno scandalo. Francesco, Torino. Direttore Fabi, prima di tutto desidero comunicarle il mio apprezzamento per Radio 24. Confesso che temevo che il cambio di direzione corrispondesse ad una svolta conservatrice. Ora veniamo a una riflessione, domanda. Leggiamo che titoli importanti, Eni, Enel e altri, hanno perso il 40-50% del loro valore dall'inizio della crisi. Ma a quale valore ci riferiamo? Al numero raggiunto per effetto dell'acquisto anche da parte di individui o società che hanno realizzato liquidità vendendo i famosi titoli spazzatura? Acquisto che si sta trasformando in vendita degli stessi titoli per contenere le perdite. Che significato ha dunque il valore al quale ci riferiamo? E se il valore bonificato di quei titoli fosse quello attuale? La ringrazio per un suo gradito commento. Domenico. Caro Domenico, il tema che lei ci propone potrebbe essere visto sotto molti profili, anche perché è al centro di un importante dibattito sulla contabilità delle imprese. Lei però penso si riferisca ai conti in tasca che devono fare le persone, i risparmiatori, e a come porsi di fronte a titoli acquistati a 100 con la fondata speranza di vedere questo investimento salire nel tempo, anche se lentamente, e che ora invece si ritrovano con un valore dimezzato o quasi. Qual è allora il vero valore di questi titoli? La risposta non può necessariamente essere univoca. C'è un valore che potremmo definire disponibile, che è quello a cui il titolo viene scambiato in questo momento sui mercati, e c'è un valore potenziale, che è quello che risulta da un insieme di fattori come il patrimonio, l'avviamento, la liquidità, gli utili conseguiti o attesi. Tutti questi fattori contraddistinguono le realtà operative delle società. I due valori possono non coincidere, anzi, il più delle volte non coincidono perché, come lei giustamente sottolinea, il valore di mercato è determinato solo e unicamente dalla domanda e dall'offerta, secondo la più classica delle regole economiche. Ma i due valori devono tendere verso un avvicinamento, perché il valore reale di un'impresa attrae per sua natura anche il valore di mercato. Detto questo, veniamo però al cuore della sua domanda. È vero, per le grandi imprese i valori di borsa sono ora anche di molto inferiori al loro valore potenziale. Quindi ai prezzi attuali c'è in teoria la possibilità di fare buoni affari. Badi bene però, caro Domenico, in teoria, perché la realtà è più complessa e se veramente, come nessuno si augura, dovessimo trovarci nei prossimi mesi con una prospettiva di pesante recessione, allora anche il valore reale di queste imprese potrebbe subire una forte contrazione e l'avvicinamento avverrebbe al ribasso e non al rialzo. Quindi la cautela deve restare in primo piano, ma deve restare in primo piano anche la fiducia sulla possibilità di uscire da questa crisi. Una crisi delicata e difficile come di rado si è verificato in passato. La fiducia è un elemento essenziale, anche in tempi difficili, anzi, soprattutto in tempi difficili. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it o agli indirizzi dei singoli programmi. Continuate a scriverci.